30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Barack Obama ha licenziato il generale Stanley McChrystal, il capo delle operazioni in Afghanistan. Aveva offeso in un'intervista alcuni dei più importanti membri che formano la squadra che combatte la guerra afghana contro i talebani e Al-Qaeda. Il presidente americano, improvvisamente al centro di una delle più drammatiche crisi militari, ha già annunciato il sostituto, il generale David Petraeus, uno dei militari più collaudati delle forze armate americane, l'ex capo delle operazioni in Iraq, attualmente responsabile del comando centrale che dalla Florida gestisce tutte le operazioni militari in Asia e in Medio Oriente. Ancora buonasera da Gigi Donelli, benvenuti a questo appuntamento con 30 minuti in cronaca. Dunque, torniamo in Afghanistan. Lo facciamo sull'onda di questa notizia che appunto la Casa Bianca ha divulgato nella maniera più pubblica possibile, nel senso che è stata una comunicazione del Presidente degli Stati Uniti affiancato dal suo vice, insomma Stanley McChrystal, con l'intervista a Rolling Stones ha varcato una soglia oltre il quale è scattata immediatamente la reazione dei vertici dell'amministrazione. Questa sera abbiamo con noi Alberto Negri, buonasera Alberto. Buonasera a voi. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, poi parleremo anche diciamo molte storie afghane di questi ultimi anni, ma come prima cosa vorrei chiederti Stanley McChrystal, tu l'hai incontrato non molto tempo fa, chi è questo signore e chi è invece quello che prenderà il suo posto, anzi che ha già preso il suo posto? Beh, innanzitutto sia Petraeus che McChrystal si conoscono perfettamente, perché Petraeus a un certo punto era stato collega prima e poi capo dello stesso McChrystal in Iraq. Anzi, proprio a Stanley McChrystal Petraeus aveva affidato in Iraq una parte della surge, cioè dell'azione di controguerriglia contro Al-Qaeda e le milizie sunnite, che poi furono in qualche modo cooptate, secondo la strategia di Petraeus, nell'apparato di sicurezza americano, messe insomma a libro paga degli Stati Uniti. Insomma, due uomini di Bush, possiamo anche dire. Non c'è dubbio, perché sia Petraeus che McChrystal sono militari dalla lunga carriera, che hanno partecipato a quasi tutte le missioni americane degli ultimi anni, hanno fatto parte dei comandi. McChrystal, tra l'altro, poco prima di questo episodio, parliamo della primavera di quest'anno, era diventato in qualche modo il militare più potente nella storia degli Stati Uniti, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dai tempi del generale MacArthur, perché non solo aveva la responsabilità sul campo di tutti i comandi afghani, ma anche delle famose operazioni delle forze speciali, che prima erano sotto i comandi centrali di Washington. Ecco Alberto, come un uomo con tante stelle, tanta esperienza scivola per un'intervista ai colleghi e chapeau comunque di Rolling Stones, insomma è possibile che questa cosa sia accaduta per caso, per un errore, per una leggerezza? Ma al di là dei toni e delle parole usate dal generale c'è in realtà di fondo un problema molto serio. Cioè la strategia militare americana in Afghanistan. Obama aveva chiesto a McChrystal di concludere in qualche modo questa guerra, di iniziare il ritiro entro il luglio 2011, per un semplice motivo: l'anno dopo ci saranno le elezioni americane e a Obama serviva in qualche modo disimpegnarsi dall'Afghanistan. Per questa strategia McChrystal aveva chiesto dei rinforzi, questi rinforzi sono in parte arrivati, ma avrebbero dovuto essere ritirati addirittura prima della fine delle offensive che dovevano essere organizzate. Insomma, dal punto di vista di un militare era molto difficile poter attuare una campagna sul campo sapendo di avere dei rinforzi che sarebbero stati poi immediatamente ritirati. E a questo che McChrystal alla fine non si è piegato. Insomma, non ha voluto inghiottire la medicina di Washington. Insomma, tutto questo ha anche il sapore di una sorta di sganciamento, quindi ben pianificato. Nel frattempo, proprio nelle ultime 48 ore, abbiamo parlato del termine di questa guerra. Obama dice: non spegneremo le luci nel luglio del 2011, anzi insiste, dice: non abbiamo mai detto che dal luglio 2011 spegneremo le luci e che ce ne andremo dall'Afghanistan. Tutto questo proprio mentre, per esempio, il Financial Times di ieri si chiede in che modo la struttura di Obama possa interrompere l'infighting, cioè i conflitti interni intorno appunto alla strategia afghana, e ancora sempre dalla stessa prima pagina come la Polonia annunci che per il 2012 intende comunque sganciarsi, ecco, da questa situazione che si fa via via più complessa. Mi sembra forse quasi inevitabile che in questo momento i bombardamenti americani possano provocare in qualche modo dei morti civili. Ecco, tutto questo mi è piaciuto andare a cercare nei nostri archivi. Questa è una cronaca appunto che Alberto Onegri ci faceva ormai quasi 10 anni fa, era l'ottobre, la fine dell'ottobre 2001, e diciamo sulla via dal Pakistan verso Kabul seguivi gli eventi che appunto portarono all'ingresso dell'Alleanza del Nord a Kabul. Ecco, molti anni sono passati, molta stanchezza intorno a questa guerra negli Stati Uniti oggi. Ma certo, in fondo l'Afghanistan ha esaurito le forze di imperi, quelli dell'impero britannico nell'Ottocento, poi quelle dell'Unione Sovietica negli anni Ottanta. È stata insomma la tomba degli imperi questo Afghanistan, e in qualche modo si profila essere anche un grave insuccesso per gli stessi americani. Ma la cosa che forse più aggravato sulla condotta di questa campagna militare, lo scrivevo l'altro giorno, l'errore strategico più grave fu commesso non in Afghanistan ma in Iraq. Cioè, quando fu aperta nel 2003 la guerra contro Saddam Hussein, l'Afghanistan venne privato delle risorse necessarie per stabilizzare il paese e combattere quei talebani che allora sembravano ormai emarginati. L'apertura del fronte iracheno è stato pagato sul fronte afghano. Ecco, naturalmente all'interno del paese qualsiasi, diciamo, implicazione di tempi, ne abbiamo citate prima, 2011-2012, deve fare i conti con quello che è la reale forza di quelli che sono i rappresentanti dell'Occidente di fatto all'interno dell'Afghanistan. Ci puoi fare un punto prima, diciamo, della pausa su quella che è la situazione del governo attuale? Qual è la sua capacità di controllare il territorio? Qual è la sua reale forza? Io direi che proprio queste dimissioni di McChrystal in qualche modo hanno fatto un po' cadere quella maschera militare mediatica che c'era sulla strategia americana, quella sorta di finzione in cui ci si stava inventando uno Stato afghano che dovesse stare in piedi da solo. In realtà lo Stato afghano guidato dal presidente Karzai in pratica non esiste, cioè è in piedi da solo, non ci sta, non ha le forze né militari né politiche per farlo. L'unico modo per uscire da questa situazione sono degli accordi proprio con quei talebani e quella guerriglia che in qualche modo controllano il 50-60% del territorio e gran parte del territorio nel sud del paese ai confini con il Pakistan. Quasi tutti gli attori della regione, ma dal presidente Karzai ai pakistani, agli iraniani, eccetera, si stanno comportando come se gli americani avessero ormai fatto le valigie, tant'è vero che in queste ore è arrivata la notizia che il Pakistan sta trattando con il network della Jihad di Haqqani, un alleato di Al-Qaeda. Questi sono segnali che indicano che se gli americani non trovano loro una soluzione, sono quelli nella regione a trovarla per conto loro. Ecco, trattative, si ritorna in qualche modo al passato, la storia si ripete, è possibile che stia accadendo in qualche modo una fotocopia in forma solamente, diciamo in parte variata da quello che è accaduto alla fine appunto della guerra sovietica? Sì, anche se proprio i sovietici, ricordo che si ritirarono nell'89 e lasciarono un vuoto enorme dentro il paese, E il loro ritiro fu seguito in gran parte anche dagli stessi Stati Uniti, perché stanno vincendo la guerra fredda e quindi l'Afghanistan e quella regione non interessavano più. In questo vuoto cominciò la grande anarchia e la guerra civile afghana tra le fazioni. Qual è il problema oggi? Ritiro o non ritiro degli americani, accordi locali e trattative varie devono condurre in qualche modo a una stabilizzazione del paese, perché se seguisse un'anarchia simile a quella che seguì al ritiro dei sovietici, beh, allora davvero questa sarebbe una disfatta. Torniamo a parlarne tra un momento. Ora sentiamo insieme come vanno le cose sulle strade italiane e poi ancora con Alberto Negri, partendo proprio da questo rischio, dal rischio anarchia, che sicuramente sarebbe drammatico per il paese e anche, possiamo dirlo, per chi in questi anni si è impegnato in questa battaglia assolutamente discussa e discutibile, ma insomma questo sarebbe veramente un quadro assolutamente assurdo. 30 minuti in cronaca. Bentornati da Gigi Donelli. Questa sera parliamo di Afghanistan. Con noi Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, partendo naturalmente da Stanley McChrystal, dall'avvicendamento annunciato dal presidente degli Stati Uniti proprio questa settimana. Ecco, si parlava dello sfuggente Afghanistan, del fatto che l'anarchia sembra ancora la possibilità più forte nell'Afghanistan di oggi, quasi che questi 10 anni, anche in termini bellici, Alberto, fossero passati di fatto in vano. Ma in qualche modo dei risultati sono stati ottenuti, ma certamente molto condizionati dall'ambiente afghano. Per esempio, è chiaro che sia gli americani che i loro alleati sono dovuti scendere a patti con la situazione sul campo, in primo luogo con i famosi signori della guerra, con le milizie armate. Si sono dovute pagare delle tangenti: se si vogliono portare i convogli della NATO e degli americani dentro l'Afghanistan per i rifornimenti, è chiaro che in qualche modo si deve venire a patti con coloro che controllano il territorio o pezzi di questo territorio. Ecco, ma quante sono le aree in cui si divide questo territorio in termini di signore della guerra e di controllo? Ma direi che le macro aree. Ecco, direi che soprattutto ci sono delle sfere di influenza importanti che hanno un carattere sia afghano che internazionale. Il sud del paese è a maggioranza Pashtun, che è l'etnia appunto più importante dell'Afghanistan. Questa zona, le province del sud, la regione meridionale, è praticamente una zona che non ha un confine vero e proprio. In pratica molte delle tribù che sono da una parte sono imparentate e hanno collegamenti con quelli che stanno dall'altra parte in Pakistan, e il Pakistan in questa zona ha sicuramente una forte influenza. Nella zona occidentale, quella di Herat, tanto per intenderci, quella dove ci sono gli italiani, dove hanno il comando regionale gli italiani, è una zona per esempio a forte influenza iraniana e dove sono forti le presenze tagiche. Al nord è molto forte la presenza tagica. Mazar-e Sharif, il signore della guerra più importante, si chiama Rashid Dostam. Insomma, l'Afghanistan in buona parte non è molto cambiato rispetto a quando sono entrati gli americani. Certo, è caduto il regime dei talebani, ma il tipo di sistema molto instabile che in qualche modo amministra il paese, quello tra milizie armate, signori della guerra, gruppi della guerriglia e integralisti islamici, insomma, è rimasto più o meno lo stesso. Ecco, la storia dell'Afghanistan è fatta anche da sempre di grandi interessi delle potenze vicine. Parlare delle province dei signori della guerra significa anche parlare degli interessi pakistani, dell'Iran, dello sguardo russo a nord e naturalmente degli occidentali che sono presenti in forze. Da questo punto di vista è possibile un accordo per un futuro di pacificazione dell'Afghanistan? Gli interessi, a tuo avviso, sono così distanti, così conflittuali, che comunque non si potrà che protrarre la situazione attuale? Ma a parole tutti si dicono d'accordo nel piano di stabilizzare l'Afghanistan. Poi nei fatti in realtà le cose avvengono molto diversamente. Tra l'altro ci sarà a breve, a fine luglio, una conferenza internazionale proprio a Kabul sull'Afghanistan, sulla ricostruzione del paese. Nei fatti che cosa succede? Nei fatti succede che tutte le potenze interessate difendono i loro interessi. In primo luogo il Pakistan, che a Kabul vuole vedere un governo amico, perché ritiene il Pakistan, l'Afghanistan, una sorta di retrovia degli interessi geopolitici pakistani. Gli iraniani vogliono mantenere una sfera di influenza che gli consente in qualche modo di avere un piede dentro la regione, dentro un paese che era ostile prima, perché i talebani erano integralisti sunniti, contrari agli sciiti. L'ex Unione Sovietica e Russia vogliono oggi mantenere anche loro uno sguardo sulla regione. E non dimentichiamo la Cina che vede nell'Afghanistan una parte di quella di una regione in cui sta penetrando economicamente, con i propri interessi economici. Quindi a un certo punto tutti questi interessi che dovrebbero convergere nella stabilizzazione, poi nella realtà confliggono e fanno in modo che l'Afghanistan non trovi mai una soluzione alla propria instabilità. Ancora una volta dunque l'Afghanistan al centro degli interessi che vanno dagli Stati Uniti, dalla Cina che abbiamo appena citato, dall'Iran, dal Pakistan, oltre a quelli degli alleati, non dimentichiamolo mai la forte presenza di militare, di interessi e di sostegno di paesi appunto come l'Italia, come la Polonia, come la Bulgaria e così via. Insomma, questo l'Afghanistan. Alberto Negri, tu da anni frequenti questa parte del mondo. Una domanda emerge spontanea all'interno, perché abbiamo parlato di strategie, di interessi, di generali. La popolazione civile, la cosiddetta società civile afghana, in questi anni ha acquisito qualche grado di forza, qualche nota di voce, oppure è come allora, come durante la guerra appunto sovietica, come 10 anni fa, destinata solamente a un ruolo di comparsa, addirittura sbiadita e nell'ombra? Ma certo, la domanda legittima poi alla fine è questa. Gli afghani stanno meglio o peggio rispetto a 10 anni fa? Ebbene, la risposta purtroppo non è definitiva. Certo, ci sono stati dei miglioramenti, sono state per esempio aggiustate delle strade, si è ritornati per esempio ad andare a scuola, ma questo dove è avvenuto? Nelle zone sotto il controllo occidentale, a Kabul, a Herat, a Mazar-e-Sharif. Rimane un Afghanistan, di cui purtroppo si parla molto di meno, che è l'Afghanistan preponderante, l'Afghanistan più remoto, quello delle province. Recentemente ad aprile sono andato in una valle, una vallata che si chiama Valle di Kapisa. In linea d'aria starà a 200 km da Kabul, in realtà sembra molto più lontana. In questa vallata ho visitato un villaggio dove c'era una scuola prima e c'era anche un cinema. E il cinema è stato distrutto, dicevano, quando sono arrivati i talebani. In realtà era stato distrutto molto tempo prima, insieme alla scuola, quando se ne erano andati i sovietici. Quindi vi rendete conto, in questi luoghi dove da 30 anni praticamente mancano le strutture principali, quale sia la pesantezza della vita, le difficoltà. E questo Afghanistan che non si è ancora raggiunto e forse non raggiungeranno mai neppure gli americani. Questo Afghanistan che sfugge a tutti e a ogni buona intenzione. Oggi, anche da quello appunto che ci hai raccontato, da quello che riportano le fonti internazionali, sembra che il governo Karzai stia già impostando trattative per un futuro appunto senza gli americani, trattative che inevitabilmente sono con il mondo rappresentato dai talibani. La domanda è possibile trovare un punto di mediazione all'interno delle diverse culture, afghane per, appunto, non dico risolvere le cose, che forse per l'Afghanistan è una parola grossa e non solo per l'Afghanistan, ma trovare appunto un modus vivendi tra queste differenti aspettative per il futuro? È questo che probabilmente lascerà prima o poi l'Occidente ancora una volta sconcertato di fronte all'Afghanistan. Karzai qualche tempo fa diceva in un incontro con i giornalisti: chi sono i talebani? Gli chiedevamo, e lui rispondeva: sono afghani come noi, in primo luogo sono afghani, e quindi lui è obbligato a trattare con loro. E non c'è una via di uscita, una via alternativa alla trattativa con i talebani, e questa è la chiave della soluzione politica. È una soluzione politica che potrebbe non piacere all'Occidente, che voleva forse fare dell'Afghanistan un paese con un volto completamente diverso da quello di prima. Ebbene, questo non è assolutamente possibile nel giro di pochi anni e forse neppure di una generazione. Grazie ad Alberto Negri per essere stato con noi questa sera. I grandi interrogativi, dunque, a quasi 10 anni dall'inizio delle operazioni militari, lo ricordiamo, nell'ottobre del 2001, quindi subito dopo gli attentati dell'11 settembre, si ripropongono con tutta la loro forza, anche in vista, non dimentichiamolo, delle elezioni di midterm del prossimo autunno negli Stati Uniti. Siamo in conclusione, il tempo solo per ringraziare Carmelo Lauricella in regia questa sera, per ricordarvi radio24.it per sentire e risentire questo e tutti i programmi di Radio 24, per augurarvi un ottimo fine settimana.